Mi dispiace, avventurieri. La risposta è corretta, ma non ci sono oggetti abbastanza pesanti nelle vicinanze. E anche se provaste ad accumularne più di uno, sarebbero troppo numerosi per starci tutti sulla leva. Purtroppo, quindi, non riuscirete a spostare i massi con questa tecnica. Dovrete trovare un altro modo per proseguire.